24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Benvenuti a 24 ore in Europa, un saluto da Anna Marino. L'alto rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, Catherine Ashton, si è detta oggi molto preoccupata per le perdite civili a Gaza e ha auspicato una soluzione duratura e sostenibile al conflitto che preveda due stati. L'Ashton partecipa oggi al Consiglio degli Esteri Europeo che ha in agenda la crisi a Gaza. Due punti di vista distanti e inconciliabili, quello palestinese e quello israeliano, anche nelle testimonianze della gente comune. Valentina Fullanetto ha sentito Jacob Namani, un israeliano che vive a Beersheba, a 120 chilometri a sud di Israele. Every night for last week we have more or less 4 or 5 alarms. Ogni notte durante l'ultima settimana scatta l'allarme, accade anche 4-5 volte per notte e allora tutte le famiglie corrono nei rifugi. Durante la giornata cerchiamo di lavorare, ma è molto difficile. I bambini non stanno andando a scuola, rimangono a casa. La situazione è pessima, ma non è una novità, perché ci conviviamo da 10 anni. Ha paura per la sua vita? No, I don't afraid at all. No, ci sono armi che ci proteggono. Ma vorrei che la situazione cambiasse e potessimo vivere in pace. È impossibile vivere in questa maniera. Chiediamo semplicemente al nostro esercito e al nostro governo di permettere che viviamo in pace. Sentiamo anche l'intervista al palestinese Khalil Shanin, che vive a Gaza City e fa parte della ONG Palestinian Center for Human Rights. All the night. Bombing and targeting different installations. One of the main. Oh, just now there is a bombing now. Ci sono stati bombardamenti tutta la notte. Anche ora, mentre stiamo parlando, stanno bombardando in lontananza. Hanno colpito la stazione di polizia di Gaza e tutta l'area, case comprese, sono state fortemente danneggiate, alcune distrutte. In un'altra zona non distante da qui hanno colpito una casa dove c'era una ragazzina di 17 anni che è rimasta uccisa. 43 persone sono morte nelle ultime 24 ore, 10 ferite. La maggior parte sono bambini e donne. Ha paura per la sua vita? Of course I am, not only me. Certo, non solo per la mia, ma per la mia famiglia, gli amici, i colleghi. Non può accadere che a mezzanotte vengano colpiti civili che dormono nelle loro case. È assurdo. Sleeping in their houses. It's unbelievable. La proposta Van Rompuy con 80 miliardi di tagli nel bilancio pluriennale 2014-2020 scontenta non solo l'Italia e la Francia, ma tutti i 27, compresa, almeno come posizione negoziale, Berlino, che viene considerata ispiratrice del testo, e Londra, che vorrebbe tagli per 100 miliardi. Lo riferiscono fonti europee, secondo le quali solo un miracolo, che pure sempre è possibile, potrebbe favorire un accordo tra schieramenti molto lontani su tutto nel prossimo vertice europeo. L'ultima voce in vista del summit sul bilancio europeo suggerisce che si potrà arrivare a un accordo a 26 con l'Inghilterra relegata non si sa bene né dove né come. La voce, rilanciata dal Financial Times, trova apparente conferma in Downing Street, che sostiene la questione sia in effetti discussa a Bruxelles, per poi aggiungere che è ovviamente inaccettabile. Che sia vera o sia solo una mossa politica di Bruxelles per premere su Londra o di Londra per premere sull'ala più euroscettica lo sapremo nei prossimi giorni. Quel che resta in queste giornate di tensione senza precedenti fra Londra e l'Unione Europea è la sensazione di un divario inarrestabile, sorretto da un sondaggio che assegna il 56% di elettori britannici favorevoli a un'eventuale uscita del Regno dall'Unione Europea. Restando ai temi del bilancio, la Gran Bretagna punta chiaramente all'esercizio provvisorio, ovvero a rinviare ogni impegno, il solo modo che consentirà al Premier di gettare un osso alle milizie euronemiche, le stesse con cui anche il Premier ha a lungo e pericolosamente giocato. L'imperativo categorico è comunque congelare la spesa. Ogni scenario alternativo per Londra, ma soprattutto per David Cameron, è politicamente, non economicamente, insostenibile. Leonardo Maisano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra. Il lavoro continua a più livelli in modo costruttivo con i partner della Troica, mentre ci sono contatti con i paesi dell'Eurozona per facilitare l'intesa sulle questioni ancora aperte sul dossier Grecia, in modo da arrivare a un accordo globale martedì 20 all'Eurogruppo. sviluppo straordinario. E quanto ha assicurato il portavoce del commissario europeo agli affari economici, Olli Rehn. La Grecia, intanto, secondo quanto affermano fonti dell'agenzia del debito greco alla France Presse, rimborserà normalmente la scadenza per 5 miliardi di euro di titoli a breve termine grazie ai fondi raccolti nei giorni scorsi in due aste che hanno permesso ad Atene di superare il mancato pagamento della tranche dei fondi Europa FMI. Ottimisti i mercati finanziari europei, da una parte sulla possibilità di un accordo a breve sul cosiddetto fiscal cliff in America che scongiuri la stretta fiscale, ovvero i tagli automatici alla spesa e l'aumento delle tasse che scatteranno fra la fine dell'anno e l'inizio del 2013 in mancanza di un accordo in congresso e che rischierebbero di frenare i consumi e di far scivolare gli Stati Uniti in una nuova recessione. Dall'altra l'Europa confida che all'Eurogruppo verrà dato il via libera al nuovo pacchetto di aiuti alla Grecia. E ora andiamo in Francia con le ultime novità in fatto di rating. Una conferenza stampa convocata in fretta per questa mattina tra circa un'ora prima dell'apertura delle borse. Così la Francia cercherà di rassicurare i mercati dopo il declassamento deciso da Moody's. L'avvertimento era stato lanciato il mese scorso e ora l'agenzia di rating è passata dalle parole ai fatti, togliendo a Parigi la tripla A come accaduto in gennaio per Standard & Poor's. Prospettive negative per la crescita, perdita di competitività e rigidità del mercato del lavoro e dei servizi tra le cause della decisione. Parigi cerca di sminuire la Francia, sottolinea il ministro dell'economia Pierre Moscovici, ha ancora un buon rating, si tratta di una sanzione della gestione del passato e comunque il governo attuerà rapidamente le riforme. Una decisione che fa passare in secondo piano l'euforia che ieri aveva contagiato le borse, con Milano la migliore che ha chiuso a 3,05. Mercati positivi grazie alle notizie dagli Stati Uniti, con il concretizzarsi dell'accordo sul fiscal cliff e al prefigurarsi di uno sblocco atteso da mesi degli aiuti alla Grecia. Oggi si riunisce l'Eurogruppo. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il punto sulla giornata di borsa di Andrea Fontana. ST Microelectronics protagonista in una giornata di borsa effervescente in tutta Europa grazie all'ottimismo sul fatto che un accordo politico negli Stati Uniti verrà trovato per evitare il cosiddetto precipizio fiscale da 600 miliardi di dollari. La buona giornata dei tecnologici, favorita dall'offerta da 1,2 miliardi di dollari di Cisco su Meraki e le raccomandazioni di qualche casa di investimento, hanno portato il gruppo italo-francese a guadagnare quasi l'8%, realizzando la migliore performance del FTSE MIB, che ha chiuso in guadagno del 3%. Rimbalzo per Mediaset, che la scorsa settimana aveva sfiorato i minimi storici dopo aver chiuso la prima trimestrale in rosso della sua storia. Il titolo ha guadagnato il 5,3%, portandosi al di sopra della soglia degli 1,2 euro per azione. Da Radio Corp e Radio 24, Andrea Fontana. Troppe quote di CO2 sul mercato europeo delle emissioni rispetto alla domanda, questo è il problema che la Commissione europea ha deciso di affrontare con urgenza. La proposta è quella di rinviare la messa all'asta di 900 milioni di quote di emissioni nel corso della terza fase del sistema ETS all'inizio del triennio 2013-2015, a fronte di un aumento equivalente del numero di quote da mettere all'asta entro il 2020. La Commissione europea, spiega il commissario europeo al clima Connie Hedegaard, vuole un mercato del carbonio ancora più solido, che si trasformi in una forza trainante per altri mercati in altre parti del mondo. Con quasi 6 miliardi di tagli previsti per la ricerca nella proposta Van Rompuy di bilancio pluriennale, l'Europa, capace di vincere il Nobel per la pace, entro il 2020 rischia una fuga di massa dei suoi cervelli migliori e di perdere un'intera generazione di scienziati. E l'allarme lanciato dalla sede di Bruxelles del Parlamento europeo dai premi Nobel per la medicina Tim Hunt e Jules Hoffmann, che con la presidente del Consiglio europeo per la ricerca Helga Novotny e il direttore dell'Organizzazione europea per la biologia molecolare Maria Leptin hanno consegnato ai presidenti delle tre istituzioni europee, al Parlamento Martin Schulz, alla Commissione José Manuel Barroso e al Consiglio Herman Van Rompuy, la copia di una petizione online che chiede di bloccare i tagli e in tre settimane ha già raccolto oltre 130.000 firme. Quattro giovani fortunati potranno recarsi a Oslo alla cerimonia di premiazione del premio Nobel per la pace assegnato all'Unione Europea. Fino al 25 novembre sarà possibile partecipare a un concorso organizzato dall'Unione Europea in collaborazione con il Forum Europeo della Gioventù, rispondendo a una semplice domanda: cosa significa per te la pace in Europa? I bambini e le bambine tra gli 8 e 12 anni potranno rispondere con un disegno, mentre i ragazzi e le ragazze tra i 13 e i 24 anni dovranno scrivere un breve testo in una delle 23 lingue ufficiali dell'Unione Europea. E con questa notizia è tutto, un saluto da Anna Marino. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.